so che lì c'è pure quella mia. Non ascolto, ma toglietela di torno. Io sono napoletano e vivo con filosofia, ma stavolta non mi arrendo. Porco no, qui non si va lontano, pane, amore, fantasia. C'è paura, per noi imperdibile questo Marco Saltatempo con La Spazzatura, perché scritta per noi, tu dici? Praticamente sì. Salutiamo, diamo la buona domenica a Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona domenica. Buongiorno. Legambiente che ha curato questo rapporto nell'ambito di spiagge e fondali puliti, ma ahimè non li avete trovati proprio pulitissimi queste spiagge, Zampetti. Cosa avete trovato? Beh, no, purtroppo no. Noi abbiamo iniziato, diciamo, da sempre facciamo questa campagna in cui andiamo a pulire le spiagge ogni ultimo weekend di maggio con tantissimi volontari e tantissimi circoli di Legambiente. Poi da qualche anno abbiamo deciso di iniziare anche a controllare che tipo di rifiuti ci sono, ma questo perché ci siamo stancati di ritrovare anno dopo anno, come diceva anche lei, delle spiagge che pulite purtroppo non sono. E quest'anno anche dai dati del monitoraggio che abbiamo fatto, insomma, il dato non è così confortante: 714 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia monitorata. Sono circa 40 le spiagge che abbiamo monitorato in tutta Italia, e come al solito al primo posto la plastica, residui di buste, frammenti di altri oggetti di plastica, bottigliette e quant'altro. E le cicche di sigaretta continuano a essere uno dei rifiuti che più di tanti altri continuano a trovare sulle spiagge, e queste sono direttamente frutto dell'abbandono. E poi un altro rifiuto che non ci aspettavamo di trovare in così tanta quantità, sì, che sono i cotton fioc, ovvero i bastoncini. Aia, aia. Che si utilizzano. Ma io sapevo tra l'altro che il cotton fioc fa anche male, non bisogna utilizzarlo, bisogna utilizzare il risvolto del telo, perché non entra e ancora ci sono persone che li buttano in spiaggia. Arrivano da quello che ho capito, arrivano dai fiumi, arrivano dal mare, poi i cotton fioc, giusto? Non è che siamo tutti in spiaggia, sì, sì, a pulirci le orecchie. Vabbè, non importa, no, dove uno lo fa. Peggio. La cosa assurda è che i cotton fioc arrivano, non riescono a essere fermati dai depuratori, da, sì, quelle che sono le griglie che trattengono gli oggetti più grandi dentro gli scarichi, e quindi la loro presenza in spiaggia è legata direttamente alla cattivissima abitudine che chi si pulisce le orecchie con cotton fioc le butta nel water, giusto, ma non vanno buttati nel water. Ma come si fa, io dico, nel 2016 ancora oggi a buttare cotton fioc nel water? Ma cosa ti passa in testa? Questo non bisogna farlo, e nemmeno forse le cicche di sigaretta, vale la stessa cosa, perché anche quelle poi arrivano tramite i fiumi e comunque non al mare in spiaggia, per cui mettetevele nel pacchetto di sigarette, in tasca. Perché c'è una nuova legge per cui c'è la multa. Per l'abbandono, giusto, di cicche di sigaretta si prende una multa. C'è la multa, infatti non vanno mai abbandonate da nessuna parte, diciamo, non soltanto in spiaggia. Sì, però ricordiamo non solo le cicche, perché sennò la cosa che non si capisce è come mai c'è la multa per le cicche di sigaretta e non c'è la multa per i cotton fioc, perché identicamente se io fuori dal finestrino anche dalla macchina butto dei cotton fioc, non sono biodegradabili i cotton fioc e quindi bisognerebbe venire sanzionati, giusto? Sì, no, sulle cicche di sigaretta è importante, perché noi potremmo distinguere i rifiuti che troviamo sulle spiagge che abbiamo trovato in diverse categorie. Ci sono quelli che arrivano dai fiumi e purtroppo dagli scarichi, ci sono dei rifiuti che arrivano dal mare, dalle attività industriali, dalla pesca. Per esempio in alcune spiagge di fronte degli impianti di mitilicoltura, quindi di cozze, sì, abbiamo trovato tantissime reti che sono quelle che vengono, le retine che vengono utilizzate dagli allevatori per impiantare le nuove colonie. Quindi ci sono anche delle spiagge che sono legate a attività del mare, oppure le correnti vanno a depositare rifiuti che si trovano purtroppo ancora oggi in mare sulle spiagge. Però ci sono tanti oggetti, le bottigliette di plastica, i rifiuti, le cicche di sigaretta, ma così come mare accendini vecchi o altri rifiuti legati al vizio del fumo, o anche per esempio abbiamo trovato tantissimi imballaggi usa e getta delle monodosi, quelle alimentari, no? L'insalata piuttosto che un'altra, la macedonia, che sono contenuti in oggetti di plastica poi vengono lasciati. Questi ultimi tipi di oggetti, sì, sono legati direttamente alla cattiva educazione di chi frequenta le spiagge. Lasciare questi rifiuti danneggia sicuramente la spiaggia, perché diciamo diventa poco piacevole prendere il sole su una spiaggia di questo tipo, ma in più noi lasciamo degli oggetti che sono pericolosissimi per l'habitat, per l'ecosistema. Zampetti, ci sono anche le stoviglie di plastica, usa e getta, anche questa pensavo fosse un'abitudine scomparsa, invece è una follia. Uno si porta le stoviglie, quelle di ferro, di alluminio normali, e poi le sciacqua in mare, no? Anche se lascia qualche residuo, è molto più ecologico come abitudine, credo. La cosa migliore è quella di portarsi, insomma, uno in spiaggia, ognuno si porta quello che preferisce consumare, però diciamo così come uno se l'è portato con tutti i pacchetti, buste, eccetera, diciamo così com'è se lo può tranquillamente riportare a casa. Considerate che in alcune spiagge, in ambienti particolarmente delicati o particolarmente lontani dai centri abitati, magari a ridosso di zone naturali, spesso magari non ci sono i cestini, ma a volte non ci sono non tanto per mancanza di attenzione quanto perché magari lasciare dei cestini in posti poco presidiati può essere rischioso perché si lasciano dei rifiuti in giro per l'ambiente, eccetera. Quindi è buon, veramente buon costume che insomma anche se non si trova il cestino si riprenda quella busta e si riporti a casa insieme all'ombrellone, perché altrimenti diventa un problema, no? Dicevo prima il problema e l'esempio mi sembra buono, perché visto che nessuno abbandona l'ombrellone non capisco perché deve abbandonare delle cose che poi danno fastidio a tutti. No, facevo l'esempio delle cicche perché purtroppo quello è un tipo di rifiuto che viene gettato, ma ancora oggi insomma purtroppo si vedono persone che quando finiscono la sigaretta poi la prendono e la gettano in terra come se non fosse un rifiuto come tanti altri. Sì, con nonchalance. È una cosa che io non sopporto, perché non si può non sapere che le cicche non sono biodegradabili, che fanno schifo a tutti, anche ai fumatori, e quindi non è una cosa tollerabile. No, non si deve proprio fare. Si getta proprio perché il fumatore diciamo non vuole tenerla addosso, visto che poi puzza. No, poi dicevo, lasciarle in spiaggia vuol dire lasciare delle piccole pillole avvelenate, perché poi dentro il filtro si concentrano insomma una serie di sostanze anche poco salutari, per usare un eufemismo, e queste pillole avvelenate poi rimangono in spiaggia e spesso vengono anche scambiate magari dagli animali, insomma dalla vita sulla spiaggia per degli oggetti, magari vengono ingeriti o comunque entrano diciamo nella catena alimentare, nell'ecosistema, con grandissimo rischio. Per cui veramente quello è uno dei rifiuti che non bisogna assolutamente abbandonare. Fra l'altro oggi ci sono insomma tantissimi portacic delle più svariate forme e colori, che è buon abitudine avere sempre con sé, sempre indietro, non soltanto in spiaggia. Senta, giusto. Invece che ci dice della direttiva europea Marine Strategy, che voi dite in Italia non è ancora sostanzialmente applicata? Cosa prevede questa direttiva? Questa direttiva è una direttiva molto importante perché riguarda il mare e le coste in generale. C'ha tanti indicatori, dal monitoraggio della biodiversità, della qualità delle acque e altro, e ce n'ha uno in particolare che è l'indicatore legato ai rifiuti marini e sulle spiagge, marine litter e beach litter, questi sono i termini. E su questi indicatori la direttiva chiede di monitorarli in maniera molto attenta, ed è quello che si sta iniziando a fare, si sta facendo in Italia con le agenzie regionali per la protezione ambiente, e che Lega Ambiente ha voluto fare con queste campagne come stimolo, come pungolo, ma anche per vedere come siamo messi. Ma soprattutto chiede da qui ai prossimi anni, al 2020, 2024 sono le prossime date che si ipotizzano come obiettivi, di ridurre in maniera drastica la presenza di rifiuti in mare e sulle spiagge. Allora è chiaro che adesso per forza di cose, dal governo nazionale alle regioni ai comuni costieri, bisognerà iniziare a capire quali sono le misure di prevenzione per ridurre questo fenomeno. Da una parte i buoni comportamenti dei turisti, dei bagnanti, dei cittadini, ma dall'altra bisogna capire anche come intervenire in maniera seria su questo fenomeno, quindi come fare delle buone politiche di gestione dei rifiuti per evitare che continuano a essere abbandonati nell'ambiente, o per evitare che, o diciamo, per permettere che vengano differenziati e raccolti bene, capire come intervenire sui rifiuti che sono ancora oggi presenti nel mare. Spesso abbiamo tantissimi rifiuti galleggianti, soprattutto plastici, che continuano a spiaggiarsi, per cui ci sono tutta una serie di misure che per forza di cose, per questa direttiva recepita in Italia, dovremmo Zampetti, in campo. 30 secondi, perché poi dobbiamo chiudere, mi dice anche che cos'è la app Trash Pick, che è una di queste buone pratiche, che sta dando una mano a segnalare insomma e a rimuovere i rifiuti. Sì, questa app è stata messa a punto con un progetto europeo della regione Liguria, il progetto SMILE. È uno strumento molto interessante che potrebbe estendersi. Questo progetto l'abbiamo fatto con Lega Ambiente insieme alla regione, ed è praticamente una app che si carica sul telefonino, che serve a segnalare la presenza di rifiuti in spiaggia, ma non soltanto a segnalarli, a spiegare anche che tipo di rifiuti è e quale codice di rifiuto ha, perché così si facilita anche la raccolta. L'intervento. Ed è un ottimo strumento per fare cittadino che segnala e la risposta dell'amministrazione. Benissimo, grazie mille, buona domenica. Grazie mille. È tutto anche per questa puntata, grazie per averci seguito fin qua e per essere stati con noi. Un grande saluto di buona estate da Alessio Maurizi.